La settimana parte all'insegna del MES, con una maggioranza che balla al Senato per le fuoriuscite di alcuni 5 Stelle. L'ipotesi è rinviare il voto sull'uso del fondo salva stati a settembre, in una settimana nella quale dovrebbe vedere la luce anche il decreto semplificazioni. La giornata di ieri è stata segnata dalla visita del Presidente della Repubblica Mattarella in quella Bergamo ferita dal virus. Una visita a tratti emozionante, mentre gli scienziati tornano a dividersi sul rischio di una seconda ondata. Ieri è stata anche una giornata di rientri dal fine settimana, un weekend di assembramenti sulle spiagge, nelle piazze e sulle autostrade, specie quelle liguri, piagate dalle verifiche di sicurezza. Programmate malino, malino. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Want me to love you in moderation? Do I look moderate to you? Sip it slowly and pay attention. I just have to see it through. You got me looking for validation. Passion's new. Want me to love you in moderation? Well, who'd you think you're talking to? Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, eccoci alle 6:32 minuti e 30 secondi di questo lunedì 29 giugno. Abbiamo cambiato musica, come promesso, con Florence and the Machine e questo richiamo, chiamiamolo così, Moderation. Allora, eccoci in questa nuova settimana che si apre con una task force composta da Peter Bescapè in regia, Lorenzo Nespoli in assistenza, in redazione insieme a Giorgio De Luca, Alessandro Marco Dulli, Gloria Guerrera, i nostri autori Margherita Ina e Francesco Ciaraffo. E voi ovviamente 349-238-6666 per i vostri WhatsApp, le vostre voci, i vostri WhatsApp audio, fatevi sentire, Fatevi sentire come si apre questa settimana, cosa farete. Il Sole 24 Ore ci dice oggi che 6 italiani su 10 non andranno in ferie, causa condizione economica. Voi cosa farete? Da cosa iniziamo? Iniziamo dai matti, Peter. Iniziamo dai matti, va. Il famoso brevetto Microsoft. Sapete cosa dice esattamente? Faccio una fatica a tradurlo all'inglese. Dice: i nostri corpi saranno in grado di minare la criptomoneta di Bill Gates. I nostri corpi saranno in grado di mimare la criptomoneta moneta di Bill Gates, ci fa sapere la signora di minare la criptomoneta di Bill Gates, ci fa sapere la signora dalla manifestazione del generale Pappalardo. Con Florence che invoca moderation e i matti in giro. Adesso mi beccherò una querela dalla signora sicuramente. Va bene. Andateglielo a dire a Bergamo che il Covid è un complotto internazionale, che non esiste, che il Covid è un complotto internazionale. Andateglielo a dire, forza. Già finita la moderazione. Andateglielo a dire a loro che ieri hanno ricevuto la visita del Presidente della Repubblica Mattarella, il quale ha detto: ricordare significa anche riflettere sulle responsabilità, sugli errori fatti. Far memoria significa quindi anzitutto ricordare i nostri morti e significa anche assumere piena consapevolezza di quel che è accaduto, senza la tentazione illusoria di mettere tra parentesi questi mesi drammatici per riprendere come prima. Ricordare significa riflettere seriamente, con rigorosa precisione, su ciò che non ha funzionato, sulle carenze di sistema, sugli errori da evitare di ripetere. Il fine settimana è stato anche quello che ha segnato il momento nel quale forse si è messo sotto controllo il famoso focolaio di Mondragone, del quale abbiamo parlato, provincia di Caserta, in quel luogo incredibile che stupisce non solamente per quello che è avvenuto dal punto di vista del Covid, ma per la situazione che c'era là dentro, una specie di buco nero dell'ordine pubblico, di buco nero della vita lavorativa delle persone. Comunque un focolaio isolato, dice il presidente De Luca. Come nel nostro caso a Mondragone, dove da 10-15 anni si trascinava una situazione di totale illegalità nell'indifferenza di tutti. Abbiamo isolato quel focolaio ormai e quindi possiamo continuare a presentare la Campania come una regione di assoluta sicurezza nelle strutture ospedaliere, ma anche nei nostri territori. Salvini oggi tra l'altro sarà là a Mondragone e dice: ghetti come quello non sono la soluzione. Vabbè, facile così. La soluzione non è mettere ghetti di 5, 6, 7, 800, 1000 persone. Io ieri ero nelle Marche, a Porto Recanati, all'Hotel House, altra splendida località di vacanza, dove dopo 2 anni di lavoro abbiamo dimezzato il numero di presenze di clandestini e di spacciatori. Però se il governo ne fa entrare come ne entravano prima, è un problema. Sì, poi il problema va detto a Matteo Salvini, in realtà lo sa perfettamente, non sono gli ingressi, ma sono le persone che sono già presenti sul nostro territorio e che sono dei totali invisibili. E questo è. Quelli famosi che aveva promesso lui e anche il presidente della regione Lombardia Fontana, ne spelleremo. Visto niente? No. Caro Francesco Cancellato, vice direttore di Fanpage, come stai Francesco? Buongiorno. Buongiorno a voi, eccoci, e buona settimana. Eccoci qua, buona settimana. Allora, abbiamo sentito di Mattarella, abbiamo sentito di Salvini, che poi sarà Mondragone. Mettiamo un attimo da parte, perché oggi mi sembra che la notizia sia questa lettera di Nicola Zingaretti al Corriere della Sera, nella quale il leader del Partito Democratico di fatto dà, forse per la prima volta nella sua storia recente, un out al Movimento 5 Stelle e dice: a questo MES, al Fondo Salva Stati, bisogna dire sì, non ci sono storie. Il tutto si intreccia con i problemi interni al Movimento 5 Stelle, con i senatori che se ne vanno, con le difficoltà parlamentari a far approvare una cosa di questo genere, perché la passerebbe, ma passerebbe coi voti di Forza Italia, che è una cosa che nessuno vuole. Insomma, a fronte di quello che è una questione pratica, Francesco, ossia l'approvazione del MES, diamo il via libera a questo prestito, per la nostra sanità, a questo prestito europeo per la nostra sanità, c'è una questione politica di fondo che si pone, mi pare. Sì, fino a un certo punto, nel senso che siamo più un gioco delle parti. È evidente che ci sono delle forti temore ideologiche del Movimento 5 Stelle sul MES legato, diciamo, quello senza le famose condizionalità, legato ai prestiti per la sanità. È evidente anche che in Italia oggi, ma soprattutto in autunno, mancheranno i soldi, o comunque andranno trovati da qualche altra parte i soldi per fare tutto ciò che è stato promesso. Repubblica stamattina dice: proroga alla cassa integrazione fino a fine anno, altro accordo tra PD e Movimento 5 Stelle. Non è gratis la proroga della cassa integrazione, ricordiamo che ci sono quasi 9 milioni di persone in questo momento in cassa integrazione. I soldi da qualche parte vanno trovati, la sanità va sicuramente potenziata in vista di una potenziale, non certa, ma potenziale seconda ondata di Covid in autunno. Uno studio pochi giorni fa ha detto che il Covid assomiglia all'influenza spagnola come andamento, quindi avrà un rallentamento durante l'estate in cui, diciamo, il caldo in qualche modo ammazza il virus, lo indebolisce molto, ma l'autunno è tutta un'altra storia. Quindi da un punto di vista di Zingaretti c'è una assunzione di responsabilità forte, dice: non ci sono i soldi per fare tutto, c'è una linea di credito forte che è stata approvata in Europa, è stata approvata anche, diciamo, per venire incontro a situazioni come quella italiana, da parte del Movimento 5 Stelle, ovviamente da un lato ci sono le remore nei confronti di questi prestiti che ricordano, lo mettiamo tra mille virgolette, diciamo, l'offerta che fece nel 2011 il Fondo Monetario Internazionale e che il governo italiano respinse, ricordiamo poi come finì a Berlusconi nel novembre del 2011, e dall'altro lato c'è questa, diciamo, paura che Matteo Salvini possa cavalcare, diciamo, quell'antieuropeismo, e magari anche Alessandro Di Battista possa farlo. Quindi sì, nel Movimento 5 Stelle ci sono più questioni, diciamo, di politica politician, di politica legata a sondaggi, consensi, potenziali dissensi interni. Dalla parte di vista di Zingaretti forse c'è un'assunzione di responsabilità più legata all'azione di governo. Sì, mancano i soldi, ci sono tante cose, bisogna prenderli. Scrive Paolo: se Forza Italia vota il MES perderà anche i pochi voti che gli sono rimasti. Io in realtà, Paolo, questo non lo credo, cioè c'è un pezzo di paese che ha voglia di una destra un po' più moderata rispetto a quella di Salvini e Meloni, e evidentemente secondo me può conservare il suo bacino di voti, poi naturalmente si vedrà, ma non è certamente una cosa, non è certamente il MES, no, che fa che fa perdere delle elezioni. Citava Francesco Cancellato tutta questa riflessione che c'è tra gli scienziati su è come la spagnola non è come la spagnola, Ranieri Guerra dell'OMS. I fatti mi dicono che il genoma virale è ancora lo stesso, i fatti mi dicono che l'andamento di un'epidemia come questa è ampiamente previsto, prevedibile, si sta comportando come avevamo ipotizzato, c'è una discesa che coincide con l'estate. Il paragone purtroppo torna indietro negli anni con la spagnola. Vi ricordo che la spagnola ebbe esattamente lo stesso andamento che ha il Covid. Così invece lato ottimisti, così vogliamo chiamarlo, Zangrillo. Il virus c'è, il virus non è mutato, il virus però è andato incontro nella sua interazione con l'ospite attraverso un fenomeno che si chiama omoplasia, a una perdita della carica che è stata rilevata in laboratorio e quindi è un'evidenza a cui corrisponde la mancanza di malattia. Insomma, caro Francesco, anche qua, come al solito, fatichiamo ad orientarci. Certo, se dobbiamo vedere a quanto, e lo dico io per primo, l'abbiamo sottovalutato all'inizio, e a quello che è diventato poi, io prenderei tutto l'ottimismo con le pinze. Non voglio far terrorismo, però un po' di attenzione la metterei. Che dici? Ma Zangrillo e René Guerra dicono cose che hanno entrambe senso e lo dicono da due punti di vista diversi, e uno parla di un andamento globale, l'altro parla di analisi di laboratorio fatte nel suo ospedale. Il tema vero è che noi possiamo prendere le parti di uno e dell'altro e decidere la verità che ci piace di più. Il politico deve prendere lo scenario peggiore e farlo proprio per principio di prudenza. Noi oggettivamente non possiamo permetterci un'altra Bergamo, non possiamo permetterci un altro marzo 2020, non possiamo permetterci di avere un nuovo collasso alle terapie intensive italiane. Quindi da questo punto di vista non possiamo permetterci un altro lockdown. Te lo stavo per dire, Francesco, cioè l'altro tema è questo, no? Non puoi permetterti di chiudere tutto un'altra volta, è ovviamente. L'IMF dice noi perdiamo il 12,8% di PIL quest'anno, è il calo più elevato da quando esistono le rilevazioni statistiche dell'aumento della perdita di ricchezza da un paese in Italia. Per la prima volta, penso, da quando sono nato io, non so, diciamo, se è successo prima, il PIL mondiale vira negativo quest'anno. Quindi ci saranno 168 paesi, se non sbaglio, che avranno un calo del PIL pro capite, cioè la ricchezza verrà persa. Tutto questo ha impatto anche sulla nostra economia, perché vuol dire che non abbiamo nessuno, come ad esempio è accaduto nel 2008 con la Cina, che cresceva mentre l'economia occidentale collassava sotto i colpi del crack di Lehman Brothers, che può surrogare la domanda, la domanda che paesi in crisi perdono. Questa volta, questo giro perdono tutti. Se noi chiudiamo un'altra volta la nostra economia, avremo milioni di disoccupati, sottolineo milioni di disoccupati. Non possiamo assolutamente fermarci. Senti Francesco, come la vedi questa storia della possibilità di utilizzare il bonus babysitter anche per i nonni? guarda che è buffa questa cosa qua, non so. È buffa, ma fino a un certo punto, nel senso, io vado un po' a monte della questione. Ma tu hai usato i nonni durante questo periodo? Noi sì, diciamo. Non pagati, ma la fortuna che abbiamo è che ovviamente abitiamo nello stesso condominio dei nonni. Ah, vabbè, allora basta. Beato te. Abbiamo avuto questa fortuna. Detto questo, buona parte del lavoro di cura in Italia viene svolto da persone che lo svolgono gratuitamente. Questo è, sì, lo diciamo sempre, una sorta di welfare. Di welfare in qualche modo parallelo a quello dello Stato. Cioè, chi ha una famiglia vicina, chi ha, come nel mio caso, ma molto banalmente, chi abita in provincia, come nel mio caso, ha delle fortune che chi abita in città, che si trova ad affrontare la vita con i figli da solo, non può avere. Su questo non c'è dubbio. Io credo che un bonus per i nonni, la vera fortuna sia già avere i nonni vicini, e forse un bonus economico, diciamo, suona un po' come uno schiaffo a chi magari in città si ritrova da solo e costretto a cercare babysitter per cui si ricordiamo che buona parte del lavoro di cura in Italia viene svolto dalle donne e le donne sono quelle che pagheranno più il peso di I nonni comunque hanno la pensione, beati loro, traffico. Ora facciamo un salto negli Stati Uniti e... Ormai fate quasi coppia fissa, anche l'altra volta vi avevo avuti insieme, se non vado errato. Francesco Costa, vice direttore del Post, autore di Questa è l'America e di un podcast proprio sugli Stati Uniti, di una bellissima newsletter. Francesco, come stai? Buongiorno. Buongiorno, tutto bene, grazie. Eccoti tornato. Come vanno le cose su quel fronte negli Stati Uniti, fronte Covid? Che poi si incrocia con, ovviamente, con la campagna politica per le presidenziali che saranno a novembre. Vai, Francesco, vai. No, non va benissimo. Già da qualche settimana si vedeva che, benché a New York, lo stato che era stato più coinvolto dalla prima ondata di contagi, le cose fossero insomma, ormai su un piede di grande ridimensionamento delle dimensioni dell'epidemia, altrove con numeri più piccoli, ma il ritmo di crescita dei contagi stava salendo. Adesso anche i numeri sono diventati grandi. L'epidemia americana, di fatto, questa prima ondata non l'ha mai completamente superata e con... mentre New York scendeva, nel sud, nel sud-ovest, dall'Alabama al Texas, all'Arizona, alla Florida, alla Georgia, i numeri sono diventati molto consistenti. In questi giorni gli Stati Uniti stanno avendo i numeri da record di contagi rilevati. Il presidente Trump più volte ha detto è semplicemente una questione di test, noi facciamo così tanti test che ne vediamo e ne prendiamo più degli altri. In realtà questo aumento avviene anche nei posti in cui i test non stanno aumentando e soprattutto sta aumentando il numero di persone ricoverate in ospedale, e questo vuol dire che non c'è solo un aumento dei test che ti permette di vedere dei casi meno gravi, ma c'è un allargare, un estendersi dell'epidemia, tanto che le riaperture, che ormai insomma stavano andando avanti ormai da settimane, in certi stati sono state già bloccate, per esempio il Texas e la Florida, ed esiste il rischio concreto che almeno un pezzo dell'America nel giro di poco si ritrovi a dover scegliere se avviare un nuovo lockdown, che è quello che tutti vogliono evitare, ma che insomma forse non è così evitabile dal momento che si è usciti dal precedente lockdown, quando l'epidemia non era ancora rientrata e senza che i cittadini si abituassero a fare alcune cose basilari come mettersi la mascherina, che in America è diventato un po' un gesto politico e quindi che divide repubblicani e democratici. Cioè il non mettersi la mascherina è dei repubblicani, diciamo dei repubblicani pro Trump, perché poi ci sono anche dei repubblicani a cui Trump non piace, e mettersela invece è dei democratici. Esatto, tant'è che ci sono i politici che fanno a gara a farsi vedere con o senza la mascherina, secondo insomma, gli elettori con i quali vogliono apparire in bella luce, ma anche tra le persone comuni ci sono un sacco di storie, di aneddoti, di precedenti, per cui l'obbligo o comunque l'invito del governo a usare la mascherina viene vista come una strategia di invadenza incompatibile con i valori americani da alcuni, invece sostenuta, propagandata e insomma, consigliata da molti altri. Non c'è niente di meglio, caro Francesco Cancellato, che in parte è successo e sta succedendo anche in Italia, per far svaccare tutto che buttarla in politica. Beh, sì, l'America, come diceva giustamente Francesco, questa cosa sta diventando quasi parossistica, nel senso che tra l'altro si intreccia anche alle proteste del movimento di Black Lives Matter, alle elezioni presidenziali. Sembra che sia la tempesta perfetta in cui la politica in qualche modo entra a piedi uniti in un paese che già di suo, diciamo, ha enormi problemi nel gestire l'emergenza coronavirus. Da noi, tu hai aperto la trasmissione con i movimenti del generale Pappalardo, per fortuna in questo momento, diciamo, siamo rimasti lì. Il problema vero in Italia, ai limiti del folklore, esatto, ai limiti del folklore. Il problema in Italia è che quando comincerà, ripeto, a mordere la crisi economica legata al lockdown, ma legata soprattutto al dopo coronavirus, quindi a quello che succede dopo. Se in America c'è un secondo lockdown, i contraccolpi sull'economia mondiale saranno pesantissimi. Ecco, lì, secondo me, a livello di tensioni, di protesta sociale, andremo ben oltre il livello del folklore, e il rischio vero è che in qualche modo l'economia comincia a guidare, o comincia a entrare in conflitto, l'emergenza economica e sociale comincia a entrare in conflitto con l'emergenza sanitaria. Che è il caso della possibilità. Mi interessa sentire. Forse è il problema più grosso di tutti. Sì, mi interessa sentire, Francesco Costa, questo: quanto ce lo siamo chiesti in molti, quanto le proteste che abbiamo visto in piazza nei giorni scorsi sono effettivamente intrecciate con la crisi economica che ha colpito a causa di Covid-19? Beh, lo sono secondo me molto, innanzitutto perché così come i contagi, anche la crisi economica è stata percepita in modo sproporzionato dalle minoranze etniche, dalle parti più fragili della popolazione, generando una rabbia supplementare che poi abbiamo visto anche nella persistenza di queste proteste, che di fatto ancora continuano anche se sono molto più piccole rispetto a qualche settimana fa. E poi perché questa montagna, sono credo 20 milioni di americani che hanno perso il loro impiego, e sono anche 20 milioni di americani che hanno oggi per esempio il tempo di andare in piazza e di dedicarsi all'attivismo, quando in un altro momento, magari pur sostenendo la causa, non avrebbero potuto. E questo è. Allora, io prima di chiudere vorrei metterla un po' più leggera. Non parlerò di calcio oggi. Solo i complimenti ai tifosi milanisti, grandi complimenti ai tifosi milanisti. Non parlerò di calcio, invece un bel crozza che imita il presidente del Consiglio Conte. Ma i progetti più credibili sono la riforma della scuola, ma purtroppo ancora non se ne può fare niente, la digitalizzazione della pubblica amministrazione, ma ancora niente, le borse di studio ai meritevoli, niente, infrastruttura per l'alta velocità, niente, niente, ancora niente. Ecco che bella parola, niente. E allora gli stati generali sono serviti per capire che l'unico progetto che possiamo realizzare con forza è niente, fare niente. E su questo, care italiane, cari italiani, siamo d'accordo tutti. E va bene, chiudiamo con crozza. Grazie a Francesco Cancellato, vice direttore di Fanpage. Ciao Francesco, alla prossima. Francesco Costa, vice direttore del Post, invece è autore di Questa è l'America. Grazie a entrambi. Noi ci fermiamo, GR24, ci ritroviamo con la rassegna stampa. Seguiteci sui social, siamo in diretta su Facebook, ci trovate su Twitter, Instagram e via dicendo. Scriveteci e mandate le vostre voci al 349 238 6666.